Cosa? Sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul, James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Ciao a tutti e a tutte, bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Soul Time qui su Radio Wombat. Questa puntata sarà dedicata alla Capitol Records, Capitol Records colosso discografico della musica statunitense e non solo. Capitol Records, conosciuta anche come Hollywood and Wine, è un'etichetta discografica appunto americana che opera come divisione della Capitol Music Group. Questa etichetta è stata fondata come prima etichetta discografica della West Coast negli Stati Uniti nel 1942 da Johnny Mercer, Buddy De Silva e Glenn Wallix. Poi successivamente nel 1955 l'etichetta fu acquisita dal conglomerato musicale britannico EMI come sua filiale nordamericana. La Capitol Records ha pubblicato tantissimi artisti di enorme successo, ve ne cito soltanto alcuni come Paul McCartney, Mary J. Blige, i Beach Boys, i Beastie Boys, Neil Diamond, gli Eagles, Brian Wilson, Beck e tantissimi altri. Ma nel corso degli anni ha pubblicato anche tantissimo soul di eccelsa qualità. Io qui nella mia collezione ne ho un po' di questa etichetta Capitol e delle sue controllate e vi propongo per iniziare questo gran brano di Gloria Jones che si intitola Come Go With Me. È un brano del 1966 e fu pubblicato su etichetta Uptown. Quindi ci ascoltiamo Gloria Jones con Come Go With Me. Come on into my heart, tell me. questo 7 pollici era su etichetta Uptown e lei era Gloria Jones. Proseguiamo con la selezione, sarà tutta su 7 pollici, tutta su l'etichetta Capitol e le controllate. In questo caso il prossimo brano è di Billy Preston, rimaniamo nel 1966, in questo caso l'etichetta è direttamente Capitol, il brano è The Girls Got Hit, Billy Preston. Girls I Got di Billy Preston, anno 1966. Proseguiamo con l'etichetta Capitol, andiamo un anno più avanti, ci spostiamo nel 1967 e ci andiamo ad ascoltare Jerry Cook, cantante lui proprio della West Coast, quindi proprio della zona della etichetta Capitol, che ha avuto, almeno al momento si conoscono, soltanto un paio di stampe di Jerry Cook, un paio di uscite. In particolare si conosce That Take What I've Got, successivamente poi la famosissima I Heart on the Other Side, un inno assoluto per quanto riguarda il Northern Soul, ed è proprio questo che vi faccio ascoltare. Quindi 1967, Jerry Cook, I Heart on the Other Side. Everyone I meet, I show them all I things I've lost, but really I don't care, yeah. At least that's what I make them think. All my secrets I never share. Once I had a special girl, I loved, I loved her so now, baby. Then one day she went away. Now my feelings I cannot show. If they just turn me over, they're gonna see that really two sides of me, and I hurt all the other side. But I cry when I'm alone, yeah. Now I hurt all on the other side, but I keep my tears at home. Not for me, but I play the parts away, yeah. No, my heart is broken down inside. No one could ever tell. They look at me, but they don't see this sad but lonely clown now, baby. If they took a closer look, they'd see my smile was upside down. If they just turn me over, they're gonna see that really true side of me, and I hurt all. But I cry. If I were to get baby, I'd hurt all on the other side. But I keep my tears from tears. Rieccoci qui in studio. Vi ricordo che l'orario di Soul Time è cambiato, non va in onda più alle 19 come è stato per circa un anno e mezzo, ma adesso va in onda alle 17:30. Sempre il mercoledì. Quindi continuiamo con la nostra storia soul per quanto riguarda la Capitol Records. Ci siamo appena ascoltati questa versione di I Hurt on the Other Side di Jerry Cook, brano del 67, i cui autori sono Barnes, Jackson e Mosley. E torniamo indietro di qualche anno, andiamo nel 1964, quando uscì questo singolo dei The Rosebuds. Prodotti da un giovanissimo Gene Reed. Gene, tra l'altro, fratello di Sharon Reed, che più tardi lavorerà anche alla Motown, soprattutto negli anni 70, come anche produttore dell'anthem dei Car Stairs, It Really Hurts Me, Girl. Quindi ci andiamo ad ascoltare dei The Rosebuds su questa etichetta promozionale della Capitol Records, la Tower. Questo brano scritto da Ernie Harris, Say You'll Be Mine, The Rosebuds. bellissimo brano questo dei The Rosebuds con Say You'll Be Mine, decisamente uno dei miei preferiti per quanto riguarda la Capitol Records. Ci andiamo ad ascoltare adesso un brano sempre del 1966. Gli anni 60 sono gli anni d'oro per quanto riguarda il soul della Capitol Records. E ci andiamo ad ascoltare una first release, cioè questo brano è la prima volta che viene distribuito su vinile. Infatti c'è un aneddoto direi abbastanza speciale su questo brano. Il brano in questione è True Love di Alexander Patton. Come vi dicevo, è appunto la prima volta che questo disco viene inciso, è stato stampato in realtà, o meglio inciso nel 1966, scusatemi, ho fatto un po' di confusione, ma stampato per la prima volta nel 2015. E la copia di questo 7 pollici è qui sul giradischi e sono quasi pronto per farvela ascoltare. In realtà Alexander Patton registrò appunto nel 1966 questo disco, ma poi fu scartato insomma dai manager della Capitol per motivi prettamente commerciali. In realtà c'è un aneddoto decisamente particolare che denota anche l'altissima qualità che può avere questo brano, da un racconto proprio dello stesso Alexander Patton, che ricorda che quel giorno del 66 era negli studi della Capitol Records per incidere un po' di brani e rimase molto molto sorpreso di vedere la band di Ray Charles al completo, pronta per registrare con lui e pronta anche Caroline Franklin, che come backing singer, in pratica come corista, pronta per questi brani. Nonostante il brano fu inciso appunto da Alexander Patton con la band al completo di Ray Charles e Caroline Franklin nel 66, poi come vi dicevo per motivi commerciali la Capitol non distribuì questo brano, ma è stato riscoperto davvero di recente e nel 2015 è uscito su etichetta Capitol, è pronto sul giradischi e ve lo faccio ascoltare. True Love, Alexander Patton. She might fascinate you, lovely by the way she talks. Oh, have mercy. And she might even send you, oh Lord, by the way she walks. Yeah, oh, but you find true love. One more thing now, you can't tell a woman, oh no, by the way she looks, all right. And you can't take a wife, no, no, by the way she cooks, no, no. Cause you find true love, it's in the heart, hey, hey. Cause you find true love, it's in the heart. Oh, no. rieccoci, questo era Alexander Patton con la stilosissima True Love. Proseguiamo la nostra selezione di quest'oggi tutta rigorosamente su 7 pollici Capitol o controllate della Capitol Records. Il prossimo 45 giri è un brano che a me personalmente piace un bel po'. È un brano del 1969, è scritto da Dan Boller, Joel Kaplan e H. Johnson ed è eseguito dai The World Column. I World Column erano originari di Chicago, era una band composta da sette componenti che aveva al suo interno anche Joe Odum, che più tardi registrò un grande classico della musica soul come It's In Your Power, sempre per la Capitol. Poi i World Column successivamente registrarono So In The Sun è proprio il brano che ci ascolteremo a brevissimo. Brano registrato appunto nel 1969 e che divenne uno dei brani di punta del Blackpool Mecca, locale famosissimo, entrato nella storia per quanto riguarda le All Nighter, Northern Soul, divenne proprio davvero un brano di punta di questo locale, una hit totale. Che appunto questa hit introdusse una certa vena anche funk, un'ondata funk all'interno dei brani piazzati dai DJ durante le serate. Poi questo gruppo più tardi cambiò nome in New World e registrò sotto questo nome anche un altro bellissimo brano che si intitola We Are Gonna Make It per la Polydor nel 1974. Quindi ci ascoltiamo questo bellissimo brano soul ricco di venature funky, ci ascoltiamo in The World Column, So In The Sun. Siamo nel 1969, l'etichetta è la Tower Records, controllata dalla Capitol. That will last. Is it because they're wicked going too fast? brano dalla straordinaria energia, questa So in the Sun dei The World Column. Il prossimo brano, già pronto sul piatto di sinistra, è un brano scritto da Chet Kelly e Tom King. Il brano si intitola Lonely Man ed è eseguito dagli The Outsiders. Grande brano del 1966, eseguito da questo gruppo Blue Eyed Soul, quello che è branca, chiamiamola così, del soul, definita il soul dagli occhi azzurri. Brano questo su etichetta Capitals, che appunto risale al 1966, anno in cui gli Outsiders vennero fuori nel mercato statunitense, nel mercato della musica statunitense, entrando anche con il brano Time Won't Let Me nella Hot 100 statunitense, e poi proprio con A Lonely Man, il brano che vi proporrò fra pochissimo, nel dance floor del Northern Soul. Poi questo brano risalente, come vi dicevo, al 1966, in realtà fu scoperto nel Regno Unito, in Inghilterra, nel 1974, e suonato dai DJ del leggendario Wigan Casino. Brano suonato covered up, cioè con la famosa etichetta a coprire titolo ed autore, proprio per non far conoscere ai rivali, ai DJ rivali o anche semplicemente al pubblico il brano che stavano ascoltando. Altri tempi. Quindi ci ascoltiamo questo fantastico brano, quest'altra grandissima hit, Northern Soul, Lonely Man, The Outsiders. Please take me in your arms, 'cause another questi erano gli Outsiders con A Lonely Man. Siamo nel 1967 e il brano che ci ascolteremo è dei The Magnificent Man con Keep on Climbing, brano scritto da Ronnie Douglas. I Magnificent Man hanno passato più di 10 anni della loro carriera sotto la Capitol Records ed erano considerati dall'etichetta diciamo un po' il cavallo di Troia per spingere la musica della Capitol all'interno del mercato R&B della Motown, all'interno del territorio della Motown che spadroneggiava in quegli anni. Durante quel periodo questa band, composta da 7 componenti, ha prodotto diversi brani, soprattutto alcuni entrarono poi direttamente negli anni successivi all'interno della scena Northern Soul, in particolare proprio quello che ci stiamo per ascoltare, Keep on Climbing, un brano molto breve che dura appena un paio di minuti, ma con un vocal molto molto importante, degli arrangiamenti, una melodia quasi esemplari per quanto riguarda il gusto degli ascoltatori del Northern Soul. Quindi ce lo ascoltiamo subito perché il tempo scorre. The Magnificent Man, su etichetta Capitol, Keep on Climbing. Sometimes I feel like I'm never gonna make it. Sometimes I feel I should just give up and quit. Cause there's something inside that keeps on telling me. Magnificent Man con Keep on Climbing. Rimane il tempo per un ultimo brano. Io vi ricordo che Soul Time va in onda tutti i mercoledì sulle bellissime frequenze di Radio Wombat alle 17:30, poi sul sito radiowombatnoblogs.org dal giorno successivo o giù di lì trovate la registrazione o podcast, che poi fondamentalmente è la stessa cosa, per riascoltarlo, riascoltare le puntate, le varie puntate che vanno in onda ogni settimana o quasi, quando e come vi pare, direttamente dal vostro computer, o altrimenti potete ascoltare Radio Wombat in diretta sulle frequenze AM, sulla frequenza 1359. Vi lascio con quest'ultimo brano che si intitola By Yourself di J.D. Martin, cantante abbastanza sconosciuto, probabilmente originario del Texas, che registrò nell'aprile del 1968 questo bellissimo brano. Vi lascio con questo e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana o al podcast su radiowombat.noblogs.org. J. D. Martin, By Yourself. Because it blows.